Buon pomeriggio, le 14 in punto. Giovedì 23 luglio del 2009, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa e siete all'ascolto di Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema. Ogni giovedì dalle 14 alle 15 ne avremo, credo, ancora per un paio di settimane. Comunque, tutte le informazioni sono sulla scaletta che troverete sul sito della radio, dove potete ascoltare anche in streaming. Allora, www.ondarossa.info e poi i nostri contatti visionari@ondarossa.info. E poi il fax 06 44 63 616. Allora, cominciamo con la nostra carrellata di ospiti. Quest'oggi anche diversi visionari dovrebbero essere con noi, per cui ce la godremo. Bentrovato a Riccardo Rizzo, direttore della terza edizione dell'Est Film Festival a Montefiascone dal 25 luglio al 2 agosto. Bentrovato. Ciao a tutti. Come stai? Bene, assolutamente bene, indaffarato, insomma ormai ci siamo, sabato inizia, quindi ovviamente puoi immaginare tante le cose da fare, comunque tutto alla grande. Senti, tu sei fin dalla prima edizione, vero? Sì. Allora, raccontaci un po' brevemente come nasce il festival. Dunque, il festival nasce dalla voglia nostra di creare un vero e proprio festival con tutto ciò che comporta, quindi sezioni competitive, premi, incontri con il pubblico insieme ai registi e il cast degli attori. Era un'idea che avevamo da un po' di anni. Noi, questa ormai è la terza edizione che facciamo, e dopo la prima che è stata un po' una scoperta, la seconda è stata una conferma, adesso ecco finalmente ci apprestiamo a fare la terza edizione, per cui c'è grande aspettativa e ovviamente insomma di anno in anno siamo cresciuti sempre di più in ordine di quantità e qualità. Mm-hmm. E questo ci fa estremamente piacere. Ti descrivo in due parole un po' la struttura del festival. Come il festival no, come ha no. Tre sezioni competitive, sì. Una ovviamente dedicata ai lungometraggi, che si contenderanno un premio economico di 7.000 euro, un arco d'oro, il nostro premio rappresentativo, e poi ci sono altre due sezioni, quella dei cortometraggi che avevamo anche l'anno scorso e novità di quest'anno la sezione documentari. Ah, quindi che bello. Ecco, diciamo abbiamo un po' a 360 gradi una visione totale di cinema. A sì. Queste sezioni si affiancano ovviamente come splendida cornice vari incontri, quali ovviamente quello di Carlo Verdone, che sarà con noi i primi due giorni, al quale daremo un arco alla carriera, un premio penso più che meritato. Finiremo con Abel Ferrara, che mm-hmm. quindi darà anche un tocco internazionale al nostro festival, verrà apposta da New York, e poi altri incontri con Alvaro Orbacher, Carolina Crescentini, Roberto Faenza, a cui è dedicato un focus, quindi insomma un bel programma pieno per coinvolgere attivamente tutti quanti, insomma. Senti, visti questi i nomi degli ospiti, come è stato contattarli? Vengono di buon grado, visto questo giovane festival? Assolutamente sì, così come l'ingresso a tutte le proiezioni, ingresso gratuito. Oh, fondamentale. Fondamentale, sì, assolutamente. Noi in fondo chiediamo semplicemente lo stesso entusiasmo che noi abbiamo per questo festival, per questo lavoro, ecco, chiediamo lo stesso entusiasmo e partecipazione al pubblico, quindi in cambio chiediamo solo questo. Per quanto riguarda invece le persone che verranno, posso dirti che con quelle che sono già venute si è instaurato il rapporto di amicizia, con quelle sì. che verranno, vedi Carlo Verdone, vedi non so, Abel Ferrara, sono persone che hanno deciso di venire da noi proprio perché credo che abbiano capito insomma l'importanza del festival stesso e la voglia di investire. Noi stiamo investendo su un festival, speriamo che stiamo investendo sul territorio e vogliamo che tutti quanti facciano la stessa cosa, quindi ecco, è un desiderio collettivo. Mm-hmm. E poi ovviamente ecco, noi abbiamo scelto questa location fantastica di Montefiascone, ma lavoriamo ormai da 5 anni a Roma, abbiamo una rivista di cinema che si chiama cinemadelsilenzio.it, per cui diciamo che questo festival un po' è anche il frutto del lavoro passato e presente del nostro sito e dei nostri movimenti romani, diciamo. Senti, a proposito di territorio, considerato anche la giovane età del festival, com'è stata la risposta del pubblico in queste prime due edizioni? Ma guarda, io ti posso dire una cosa, il primo anno ovviamente per mancanza di tempo e di comunicazione, ma anche di esperienza, per essere sinceri, il festival non ha avuto una grandissima visibilità, ha avuto una grande partecipazione dal punto di vista di pubblico, ma poca visibilità. L'anno scorso ovviamente con nomi come Nanni Moretti, Giuliano Montaldo, Pupi Avati abbiamo avuto anche insomma risonanza sul territorio. Quest'anno devo dirti con sincerità, noi siamo molto contenti perché ormai si è creata una vera e propria aspettativa per il festival, perché poi insomma un evento culturale, che sia un festival di cinema o di musica o di qualsiasi altra forma di espressione d'arte, in fondo si deve sempre legare con il turismo, con una creazione di un movimento, perché no, anche economico. Questo è assolutamente fondamentale. Noi un'altra cosa che fa piacere è che ovviamente stiamo cercando di far conoscere le bellezze di Montefiascone, che altrimenti non avendo la giusta visibilità è come se non esistessero, sai, purtroppo è come un po', faccio un film in concorso, abbiamo tanti giovani autori, registi, attori che sono molto bravi, nel momento in cui non possono avere una visibilità per i vari problemi che il cinema italiano ha, soprattutto in quanto a distribuzione eccetera, è come se non esistessero. Invece è giusto dare proprio visibilità al territorio, alle opere in concorso, un po' tutto, alle problematiche del cinema. Cioè il festival deve essere una comunione di incontro, di intenti, ecco, stare con il pubblico, con gli attori, insomma. Entusiasmo, ci vuole entusiasmo. Sì. Senti, a proposito sempre di territorio, come è nata la scelta di questo paese della Tuscia come luogo del festival? Ma guarda, noi 3 anni fa ci siamo seduti attorno a un tavolo, abbiamo detto ok, abbiamo fatto delle rassegne a Roma, vogliamo fare qualcosa di più bello, di stimolante, fare qualcosa di nuovo. Ovviamente sai, Roma offre tantissimo, però toglie anche tanto, e un nuovo festival a Roma lo pensavamo o estremamente specifico su certi temi, certo, ma ovviamente a 25 anni non avevamo né l'esperienza né le conoscenze per poter fare una cosa del genere. Sì. E quindi abbiamo pensato di puntare l'attenzione su un festival che promuovesse anche con premi economici una cinematografia italiana giovane e soprattutto di qualità, e abbiamo scelto Montefiascone perché in tutta la Tuscia, questa terra bellissima, in tutta la provincia di Viterbo non c'erano festival veri e propri, sicuramente altre manifestazioni, rassegne, serate particolari, ma non un festival. Sì. Allora abbiamo detto, a 1 ora e un quarto di macchina da Roma, in una zona così bella, scegliendo Montefiascone che ha delle location incredibili che non hanno nulla a che invidiare con altri festival che si svolgono, non so, a Taormina o a Ischia, ecco, valorizziamo questi posti, valorizziamo ovviamente anche i film che passeranno per il nostro festival, per cercare di crescere un po' tutti. In fondo anche noi siamo giovani, ovviamente stiamo investendo su questo evento, certo, quindi certo. Ecco, la gente ovviamente questa cosa l'ha capita, ha capito l'onestà e la professionalità del nostro lavoro, e a noi insomma ci fa veramente tanto tanto piacere, perché significa che si lavora bene, che riusciamo a trasmettere entusiasmo e che le prospettive insomma saranno sempre più ampie, quindi insomma, siamo assolutamente soddisfatti. Poi è ovvio che aspettiamo tanto pubblico quest'anno. L'anno scorso in 8 giorni abbiamo registrato una presenza più o meno di 1000 persone al giorno, quest'anno essendo 9 giorni e avendo nomi ancora più altisonanti speriamo di sorpassare le 10.000 unità, dai. Allora Riccardo, in chiusura tocchiamo l'aspetto più importante, ossia i titoli. Sì. Come vi siete basati sulla scelta e se avete poi puntato su un indirizzo oppure semplicemente sulla qualità? Ma guarda, sicuramente come criterio di selezione principe possiamo vedere quello della qualità. Poi sì, è ovvio che questo prescinde dai propri gusti personali. Sicuramente, insomma, un buon festival è anche un festival che possa proporre dei titoli che possono anche dar luogo a dei contrasti, a delle critiche, però l'importante è che ogni film in se stesso abbia delle qualità intrinseche. Sì. Ed è quello che noi abbiamo cercato. Poi è ovvio, noi abbiamo cercato di dare uno sguardo privilegiato al cinema italiano, mm-hmm, e al cinema indipendente, laddove per indipendente si intende appunto che magari non ha avuto distribuzione, o è un'anteprima assoluta, o magari pur avendo una distribuzione, sai, uscendo in 4-5 copie in tutta Italia, ovviamente purtroppo se non stai a Milano, non stai a Roma, è come se il film non fosse proprio uscito. Quindi diciamo la qualità, l'indipendenza e ovviamente, ecco, uno sguardo alle opere prime. Insomma, abbiamo un'anteprima e sui 7 film in concorso addirittura 5 su 7 sono opere prime. Bene. Quindi questo è stato un po' il nostro criterio. Poi uno deve sempre sapersi rapportare agli altri festival. Insomma, noi non siamo Venezia, è ovvio che non puoi avere un'anteprima di Sorrentino o di un Garrone, e quindi bisogna incentivare i giovani autori, e ce ne stanno tanti che ancora non hanno visibilità. Mm-hmm. Basti pensare a Garrone stesso, no? Prima di Cannes purtroppo non molte persone lo conoscevano, dopo il suo passaggio trionfale a Cannes ovviamente ha avuto molto più risalto e insomma i giusti complimenti da parte di critica e pubblico, che altrimenti non l'avrebbe conosciuto. Quindi mm-hmm, il festival deve fare questo, deve dare visibilità. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Oh, questa edizione ospiterà anche i documentari, il che mi pare una cosa significativa. Sì. Per quanto riguarda i documentari, come è nata la scelta? Immagino, perché insomma la situazione sia parecchio in fermento, cioè noi diamo abitualmente come trasmissione ampio risalto ai documentari, e devo dire che c'è un grande movimento. Assolutamente. Mm. Beh, guarda, come è nata l'idea? Noi già dall'anno scorso pensavamo di strutturare una sezione competitiva in più dedicando ai documentari. Sì. Ne abbiamo sempre proiettati alcuni, specie in collaborazione con Amnesty International. Anche quest'anno, nella fattispecie, il 26 luglio proietteremo Come un uomo sulla terra di Andrea Segre. Sì. Verrà anche Riccardo Nuri di Amnesty, quindi documentari già ce n'erano stati nel festival, però volevamo fare una crescita graduale che ci potesse permettere di fare le cose per bene, diciamo. Certo. E quindi quest'anno abbiamo deciso di fare anche questa sezione. Una sezione importantissima, come dicevi te, in fondo ormai in un'epoca mediatizzata e cannibalizzata dalla televisione, uno sguardo cinematografico alla realtà è d'obbligo, perché altrimenti poi uno ha solo una visione piuttosto didascalica della realtà, e invece il documentario deve fare proprio questo, cioè deve dare un altro sguardo a ciò che ci circonda. Abbiamo 4 titoli, sono molto differenti le opere l'une dalle altre, però ecco, appunto si parte da Via Selmi 72, che è il primo documentario che presentiamo, che parla di una realtà romana, di una videoteca. Sì, l'abbiamo presentato anche qui, sì. Esatto, sì. Quindi insomma lo conoscete bene. Finiremo con Beautiful Country, che parla un po' del discorso dei rifiuti di Napoli, e non solo, ma non i sacchettini dentro i cassonetti di Napoli che qualcuno ha levato in 448 a quanto pare, ma si parla di problemi un po' più seri che prendono spunto da 12 anni fa. Quindi insomma, e poi Allegro Moderato e Bianelli, che sono altri due documentari diversi tra di loro. Allegro Moderato sulla musica, su questo linguaggio che può unire persone che magari hanno degli handicap fisici, come questi dell'orchestra Esagramma, e Bianelli che parla appunto della situazione a Padova, di quel muro che è stato innalzato, mm-hmm, in quel ghetto in cui insomma vivono persone in condizioni disagiate. Sì. I documentari non sono tantissimi, problemi, noi abbiamo un po' di problemi qua con lo spazio, perché pur essendo un festival cinematografico, non sfruttiamo né un teatro né un cinema, bensì una piazza e una rocca del 1400. Quindi ecco, speriamo, ecco, questa è la sfida per il futuro, di avere sempre più spazi, perché noi abbiamo già chiesto all'amministrazione attuale l'ipotesi di avere un bel teatro, perché la cultura è assolutamente importante, provano a distruggerla ogni giorno, che sapete è più comodo, però insomma è giusto che ci sia, cultura e che ci sia anche divertimento, svago, poi insomma specie nell'ultimo momento credo che sia molto utile un po' per tutti distrarsi, perché poi insomma la situazione non è che sia così rosea, e quindi cultura e svago secondo me sono un'ottima risposta al periodaccio che stiamo passando, e noi appunto abbiamo questa visione, è condivisa da tutti quanti, e quindi tutti insieme si va avanti. Riccardo, in bocca al lupo, chissà che non ci si veda lì. Assolutamente sì, anzi, io mi segno nome e cognome tutte le persone che ho sentito in questi giorni, poi chi non viene, insomma, se la vedrà con noi. No, io invito tutti a venire, veramente, il posto è bellissimo, un'ora e un quarto da Roma, una vista sul lago splendida. Sì, conosco Monte Fiasco. Bene, allora, aspetto te, ovviamente, e anche tante altre persone, e vi ringrazio. Un abbraccio, a presto. Grazie ancora, ciao, un abbraccio. Ciao. Riccardo Rizzo, direttore della terza edizione dell'Est Film Festival a Montefiascone, provincia di Viterbo, 25 luglio 2 agosto. Proseguiamo. Cristina, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Come stai? Più o meno, tutto a posto. Finito allora. Il dopo stamattina, rieccomi qua. Allora, Tech Festival che si muove continuamente. Sì. Questa volta una rassegna qui a Roma dal 27 luglio al 7 agosto, una finestra sul cortile, questo è il titolo della rassegna, che si svolge in una scuola. Sì, alla Carlo Pisacane, che si trova via Acqua Bulicante. E diciamo insomma che la Carlo Pisacane è salita alla ribalta delle cronache romane, a questo punto anche nazionale, visto che la stessa Gelmini ne ha parlato, per una voce che girava di voler cambiare il nome della scuola. In questo periodo di italianità sempre più stretta, diversi gruppi anche di destra eccetera hanno fatto un vero e proprio quasi assalto alla scuola, rivendicando il no al cambio di nome, insomma, e anche facendo riferimento a Carlo Pisacane, che per storia insomma appartiene a tutti tranne effettivamente alla destra italiana. Tuttavia insomma diciamo che questa attenzione su questa scuola ha fatto sì che comunque insomma in realtà non si parlasse di meno di quello che invece sono le attività che questa scuola fa da sempre, di insomma un lavoro anche sul territorio, di integrazione di tantissimi bambini che ci stanno, ma soprattutto di cultura, perché è una scuola enorme, c'è un cortile bellissimo, è una scuola veramente molto antica che sta al centro di un quartiere molto popolare con le Torpignattara, Acqua Bulicante eccetera, per cui prima di noi c'è stato per il secondo anno consecutivo una rassegna di jazz, anzi rinnovo insomma chi fosse l'ascolto interessato e amante di questo genere musicale, questa sera c'è l'ultimo concerto di jazz proprio all'interno sempre della Carlo Pisacane, e poi dalla settimana prossima, da lunedì prossimo, se non sbaglio alle 21:30, vero? Sì. Okay. Faremo questi 10 giorni di proiezione. Diciamo che della programmazione del Tech Festival abbiamo soltanto un film, riproporremo soltanto un documentario, che è Quando combattono gli elefanti, che parla delle vicissitudini dei licenziamenti Dante De Angelis. Insomma, ne abbiamo parlato tante volte per la radio, ci sembrava opportuno riproporlo in un momento in cui dopo Viareggio comunque Trenitalia di salita a ribalta delle cronache, e questo sarà il 31 luglio. Sì. Invece da lunedì, insomma, per tutta la settimana saranno film di grande che sono comunque andati al cinema, che per particolare piacere nostro e anche della scuola stessa e del municipio, visto che lo facciamo in collaborazione anche con il municipio, vogliamo riproporre insomma a chi abita nel quartiere, ma anche un po' a tutta la città. L'entrata è gratuita, ci sarà maxi schermo, sedie, grattachecche, popcorn e un modo insomma anche per riviversi appunto, ripeto, un quartiere molto popolare che insomma al di là della scuola effettivamente quest'anno ha veramente poco di cultura, sì, di cinema, sì, e sì, anche di musica. Senti Cristina, mi hai mandato il programma, non ce l'ho sotto mano, sì, e volevo chiederti, ma Quando combattono gli elefanti è l'unico documentario in programma? Sì, è l'unico documentario, perché adesso sono tutti i film, ve li posso leggere molto velocemente. Lunedì sì, iniziamo con Gran Torino di Clint Eastwood, ci sembrava insomma un buon tema con cui iniziare, che anche qui comunque si parla in America del rapporto fra bianchi e neri, chiamiamolo così, o comunque di integrazione, di vicinato e via dicendo. Poi parliamo, mandiamo Wallace e Gromit, La maledizione del coniglio mannaro, perché pur sempre poi è una scuola per bambini, per cui ci andava che anche delle animazioni fossero presenti nella programmazione. Poi Louis Michel, con cui insomma in collaborazione facciamo con la Fandango. Poi Nuovo Mondo, anche questo insomma un bel film di Crealese. Poi Quando combattono gli elefanti, e Si può fare, inizia invece la settimana prossima, lunedì prossimo, sì, iniziamo con Si può fare. E poi Wall-E, che anche questa è un'animazione di un robottino. Poi Arthur e Asmar, animazione anche questa. E poi Pranzo di Ferragosto, e infine La buffata di Mimmo Calopresti. Senti, il calendario è sul sito, sul vostro sito? Techfestival.it. Techfestival.it. Benissimo, allora in bocca al lupo. Grazie, venite, buona visione a tutti. ciao. Cristina del Tech Festival per raccontarci di questa rassegna Una finestra sul cortile, che parte il 27 luglio e andrà avanti fino al 7 agosto alla scuola Carlo Pisacane qui a Roma. Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza dal 1977, senza padrini politici, senza padroni economici. Questo è Visionari, il consueto appuntamento con il cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni e anche la possibilità di ascoltare in streaming cliccando su In diretta dal sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Proseguiamo. Il nostro Marco Catola, buon pomeriggio caro. Ciao, come va? Bene, diciamo bene, dai. Sì. No, sono felice di essere tornato, dopo un po', vedi, anch'io mi prendo delle pause, ma poi torno. No, e appunto, prima di parlare magari velocissimamente delle uscite, perché qualcosa ho visto, sì, vi volevo appunto parlare invece di un festival a cui parteciperò, uh-huh, che si chiama Anima Film Festival, è sì, un festival che la prima edizione, che si svolgerà a Porto Ercole, sì, e la prossima settimana, dal 30 luglio al 1 agosto, uh-huh, e quest'anno in versione ridotta, diciamo, prima edizione, e infatti io mi occupo della selezione dei cortometraggi, perché ci sarà, non quest'anno, ma da partire dal prossimo anno, ci sarà il concorso, uh-huh, qui a tematica, appunto rispetto all'anima, diciamo, perché ogni anno ci sarà una tematica diversa, però sempre inerente all'anima, e i corti saranno, spero, quest'anno ho fatto una selezione però soltanto di corti italiani, mentre il prossimo anno spero che il concorso sarà internazionale. E quindi vi volo ma anche qui vi parlo velocemente, comunque ci sarà la conferenza stampa lunedì alle 10.30 alla Casa del Cinema, dove ci sono i direttori artistici Filippo Mauceri, Michela Ferrante, Sita Banerjee, che è la mia capa, ex capa di Capalbio, che quindi ci siamo rincontrati dopo la fine del nostro sodalizio a Capalbio, ci siamo rincontrati qua, e appunto io mi occupo di cortometraggi mentre loro proprio della direzione artistica. E infatti vi volevo soltanto parlare degli appuntamenti che ci saranno, perché giovedì 30 luglio, appunto a partire dalle 21, ci sarà prima un incontro con Gino Castaldo che parlerà di musica e cinema, il giornalista della Repubblica, parlerà appunto del rapporto tra musica e cinema. Dopo ci saranno due corti che cioè un po' di corti anzi che ho selezionato io, italiani, e che poi dopo, di cui dopo vi dirò i titoli velocissimamente, e poi ci sarà invece anche la proiezione di un film che ho proposto io e che poi è stato accettato, che non mi viene da ridere perché è un film che io ho visto al... Ti viene da ridere perché è stato accettato? Sì, anche! no, povero, loro vi dico no, però povero film, no, scherzo, perché era il Festival di Pesaro, che ne avevamo già parlato poi con me o comunque con altri, e non so, forse l'hai visto perché avevamo fatto anche l'anteprima stampa, che è la fisica dell'acqua di Felice Farina. Non l'avevi visto. Non ho avuto modo. Io sono felice che l'abbiano scelto, uno perché vabbè, al Festival di Pesaro aveva avuto un buon successo perché aveva vinto il premio del pubblico, cioè era stato proiettato in piazza ed è tra tutti quelli che erano stati proiettati durante la settimana del Festival di Pesaro quello che ha ricevuto il maggiore votazione dal pubblico, quindi comunque al pubblico era piaciuto. Sì. No, è un film molto particolare, cioè diciamo esula un po' da quelli che sono i film italiani, quindi io ogni volta che c'è un regista che fa un film che comunque va al di fuori dei canoni, io comunque cerco sempre di premiarlo, al di là che poi qualitativamente sia un capolavoro o meno. No, perché La fisica dell'acqua è un film secondo me abbastanza coraggioso, che è un thriller psicologico con protagonista un bambino che non so, appunto ne avevamo già parlato, comunque ve lo dico velocemente, di un bambino che ha nascosto, diciamo, la verità del suo passato nella memoria, cioè non si ricorda, ha dei frammenti di memoria che non gli sovvengono più, finché appunto non c'è l'incontro con uno zio che gli farà venire in mente appunto questo trauma che aveva nascosto, e si scoprirà un terribile segreto che riguarda appunto la famiglia. Quindi ed è giocato su, diciamo, sia sul rapporto col bambino e l'adulto, perché tutto il film appunto è proprio parte dal punto di vista del bambino, quindi anche a misura proprio di bambino, e sia anche un thriller psicologico perché ricorda per certe cose anche un po' Il sesto senso, chiaramente non ha queste venature horror, però ha una certa suspense, quindi io sono felice che sia stato accettato. Nel cast c'è Claudio Amendola, Paola Cortellesi e Stefano Dionisi, e c'è quindi questo doppio binario, diciamo, narrativo, sia dalla parte del bambino sia appunto di questo passato nascosto che poi fa parte comunque un po' anche della fantasia infantile. E ci sarà anche Felice Farina, sia in conferenza stampa sia giovedì 30 luglio, sarà intervistato da un critico cinematografico che è Maurizio Ermisino, e poi invece il giorno dopo ci sarà il film verrà presentato, quindi il venerdì 31 luglio alle 21 ci sarà invece sarà presentato il film della vita di un giornalista TV, che però appunto il film è a sorpresa, quindi non vi posso dire qual è il film della vita di questo giornalista, e a seguire ci saranno poi i cortometraggi che ho selezionato io. E l'ultimo giorno ci sarà invece il premio Anima Film Festival 2009, che viene assegnato al regista Giuseppe Piccioni. Quindi sarà proprio Giuseppe Piccioni, e a seguire verrà poi proiettato il suo ultimo film, di cui abbiamo già parlato in passato, Giulia non esce la sera. Sì, sì. E invece, giusto per come questa selezione di cortometraggi che ho fatto purtroppo non faranno parte del concorso del prossimo anno, quindi sono comunque dei corti che sono già stati presentati anche ad altri festival, credo che anche siano forse anche in TV, perché sono dal 2008 al 2009, e sono dei cortometraggi tutti italiani, e io li ho scelti anche in collaborazione con Cinecittà Luce, perché appunto il festival è anche è stato fatto in collaborazione appunto con Cinecittà Luce. Okay. Vi segnalo soltanto i titoli, giusto per ricordarli, magari qualcuno poi le vuole recuperare, si possono anche trovare credo in vendita, e sono distribuiti appunto in parte anche alcuni dall'Istituto Luce. Il primo che ho scelto è Basette di Gabriele Mainetti, che non so, credo che qualcuno l'abbia visto, perché insomma ha avuto molto successo, nel senso che siccome a parte vabbè che ha un cast abbastanza altisonante, perché c'è Valerio Massandrea, Marco Giallini, Luisa Ranieri, Daniele Liotti, ma poi è molto un porto abbastanza simpatico, l'ho scelto anche se non è proprio il mio preferito, però è molto simpatico perché riguarda appunto la storia di tre ladruncoli che vogliono fare il colpo e che hanno la fissa per Lupin III, il cartone animato. Uh-huh. E siccome Valerio Mastandrea, se ci pensate bene, è identico a Lupin III del cartone animato, se qualcuno se lo ricorda, insomma, il cartone animato, chi ha la mia età o la nostra età comunque è cresciuto con quel cartone animato, è veramente identico, con giacchetta rossa e basetta un po' lunga, è veramente identico. Stessa cosa per Marco Giallini, che è uguale a Gig con la pistola, quindi l'ho scelto perché insomma era abbastanza divertente. Poi ne ho scelto un altro che si chiama Una strana infedeltà di Livio Rositani, che è anche questo è un cortometraggio abbastanza comico, e in cui appunto un marito che si ubriaca sempre e non ripassa una notte fuori casa e si risveglia nel letto di un altro uomo, e quindi non si ricorda nulla di quello che è successo la sera prima, e vabbè non svelo poi come va a finire, comunque anche questo è un corto comico. E poi gli altri due giorni ho scelto altri due corti, sempre in collaborazione con Cinecittà Luce. Uno si intitola Bulli si nasce, di Massimo Cappelli, che anche questo è un corto comico dove sono protagonisti dei bambini e parla appunto del bullismo, chiaramente in chiave ironica. E un altro corto che secondo me è il migliore, sono veramente felice di averlo selezionato, purtroppo non parteciperà quindi il prossimo anno, che si chiama Alice di Stefano Anselmi, e con protagonista Isabella Aragonese. Uh-huh. E parla un po' della follia e dei manicomi, e mi è piaciuto molto, e quindi sono felice di averlo selezionato. Okay. Poi quindi si concluderà poi il primo agosto, quindi lunedì c'è la conferenza stampa, e poi il prossimo anno speriamo poi di ritrovarci qua a parlare per l'eventuale concorso. Okay. Per il resto invece, allora, per le uscite, io so che è uscito l'unico film che ho visto che è uscito, dovrebbe mm-hmm. essere Immagina che non mi risulta. No. Ah, non è uscito, perfetto. Non allora niente, Imagine That. Ok, no, allora non è che l'unico che avevo visto. E che uscite ci sono, quindi? Guarda, questa settimana Big Mama Fighting, Jonas Brothers, il 3D Concert Experience. Alla sti cavoli, perché insomma che non ho visto proprio niente. No, Fighting mi sarebbe piaciuto vederlo perché è di Dito Montiel, che è lo stesso di sempre con lo stesso attore che aveva fatto quel film interessante, Il manuale non mi ricordo più, che era stato presentato al Festival di Venezia, aveva vinto anche la settimana della critica due anni fa, ed era molto interessante, quindi mi sarebbe piaciuto vederlo, però purtroppo non l'ho visto. E invece dei film già in programmazione, sì. Io non so cosa hai visto, ma mi piace sempre ricordare. Infatti, no, un film l'abbiamo visto insieme. Che abbiamo visto insieme? Abbiamo visto Centrinians, mitico Centrinians. Centrinians? L'abbiamo visto insieme? No. Ma hai visto di? Sei sicuro? Sì, eri in prima fila. Ero in prima fila, sì. Ho rimosso tutto. Ma come? No, vabbè, non ho parole. No, eri troppo concentrato. È vero, forse. è vero. No, mi ricordo. Ecco. Che non so, poi ne avevi parlato. Ma bello è che l'ho pure recensito. Sì, infatti, no, quello me lo ricordo perché me l'avevi detto. Ma io mi ricordo tutto, infatti, sei te che vabbè, non ti ricordi. Ma non ti era piaciuto? Ma insomma. No, faceva ridere, dai, era divertente, no? Ma... Vabbè, comunque, a te è piaciuto. Sì, abbastanza. E ce sì. lo segnali. Sì, no, lo segnalo, vabbè, chiaramente con riserva, cioè si tratta di una commedia demenziale teenageriale, quindi sì. Cioè, nel senso, ha un po' questo limite, però diciamo che rispetto a quelle totalmente caotica, sì, ma poi rispetto a quelle americane questa è molto più, non lo so, cioè proprio essendo inglese ha un altro tipo di comicità che io preferisco sinceramente, è meno scollacciata e più divertente dal mio punto di vista, sì, cioè. Sì, sì. E invece ecco, fra le uscite però dell'estate, diciamo, che comunque sono anche passate abbastanza inosservate, io invece vi volevo segnalare, che non so però se è ancora in giro, vi volevo segnalare Crossing Over. Sì, no, non lo so, non credo che sia, però non sono sicuro. Non c'è più. Non sono no, sicuro. Infatti, può essere che ancora c'è. Perché no, diciamo no, ma soprattutto perché mi faceva ridere il paradosso solito di questo cinema americano, comunque del cinema in generale, perché il protagonista di questo film è Harrison Ford, sì. E qualche settimana prima dell'uscita dell'uscita di questo film era uscita invece la notizia che Harrison Ford era l'attore americano più pagato del mondo, poi esce questo film in tre sale, cioè quindi faceva veramente ridere sta cosa che lui nonostante sia l'attore più pagato del mondo, comunque il film incide, sì, cioè che non c'entra nulla, perché comunque questo film ha avuto scarso successo anche negli Stati Uniti, ma soprattutto perché ha avuto dei problemi di censura, perché c'è un personaggio nel film, tu l'hai visto questo film? No. Ah no, perché c'è un personaggio del film, una ragazza di origine iraniana, che commenta l'evento dell'11 settembre in classe, colpevolizzando i terroristi, ma cercando di capirli, che da un certo punto di vista è una versione anche abbastanza plausibile, cioè una considerazione plausibile, però chiaramente in una classe di 15 anni, in un film iperamericano con Harrison Ford protagonista, posso capire che abbia creato dei problemoni. Chiaramente poi nel film, oltretutto, questa ragazzina fa una brutta fine, nel senso che sempre in virtù della civiltà americana hanno delle leggi per le quali possono coesistere appunto degli individui di non naturalizzati americani, però nello stesso tempo che vengono, sui quali si chiude un occhio sulla loro appunto presenza negli Stati Uniti, però nel momento in cui appunto possono creare un problema a livello terroristico vengono rispediti in patria, quindi c'è sempre questo, infatti questo film è un film abbastanza complesso, un po' contraddittorio, come poi del resto anche il paese, cioè gli Stati Uniti, il paese di cui parla e qui al centro di questo film, è pieno, un paese pieno di contraddizioni, quindi è un film che può suscitare consensi e dissensi, cioè può piacere e non piacere, comunque l'ho trovato abbastanza interessante, perché come anche un altro film che era appunto Crash, che poi ebbe quel successo inaspettato anche agli Oscar, perché vinse come miglior film dell'anno, che non mi era piaciuto, diciamo questo, anche questo ha questa struttura circolare che parte da un personaggio, poi si espanda a macchia d'olio su una serie di vari personaggi, dà come fulcro centrale in questo caso la come si dice, aspetta scusami la parola, vai con un sinonimo, con una spiegazione fatti aiutare, no sono veramente fuori di testa, no ma perché non ho dormito tutta la notte per fare questa selezione di corti, sto veramente fuori comunque di testa, comunque parli a macchinetta pure se non hai dormito. Ecco, sull'immigrazione, ecco, okay. Come fulcro l'immigrazione, okay. Sono tutti personaggi appunto extra comunitari del senso degli Stati Uniti, però e che vivono negli Stati Uniti illegalmente, diciamo migranti, sono, dai. Sì, emigrati, sì, che sono praticamente sono tutti alla ricerca di questa benedetta green card e chi in un modo, chi nell'altro riesce ad ottenerla. Okay. E diciamo che la cosa interessante del film è che da una parte è chiaramente politically correct, cioè viene fuori alla fine nonostante tutto questa energica bandiera americana che riesce a riunire tutti sotto le sue stelline, e dall'altra però c'è comunque sempre quasi viene fuori che alla fine chi riesce a ottenere la green card non è magari chi se lo merita, ma è il più furbetto, il più che azzarda di più e che comunque riesce a farla franca magari anche illegalmente. E quindi è un film particolare, infatti no, lo consiglio, perché comunque credo che a livello generale, quello che è anche il panorama politico-sociale degli Stati Uniti, questo possa darci anche un'illustrazione di come è oggi la società americana. Ok, Marco, io ti blocco qui, te stai andando a ruota libera. Sì, no, vabbè, scusa, no, hai ragione, no, perché così è tanto che non ti sento, dai. No, fa sempre piacere. Sì. Senti, può essere che, vabbè, io non vado in ferie, almeno fino agli inizi di agosto, per cui credo almeno altre due puntate dovremmo farcela. Va bene, va bene. Io giovedì prossimo sarò a Porto Ercole, magari vediamo. Magari ci fai il collegamento. Se esce questo immagina che... Ok. Ne posso parlare. T'abbraccio, ciao Marco. Ciao, ciao. Benvenuto a Paolo Santolini, coregista del documentario Domani Torno a Casa, eccoci qui. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, tu? Bene, bene. Allora, noi ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, sì, quando il documentario venne proiettato qui a Roma. Al Sacher. Al Sacher. E quindi ti vorrei chiedere intanto un po' di notizie rispetto a prossime proiezioni e a come è andata questa anteprima romana. Guarda, allora, per le prossime proiezioni non ne abbiamo un'idea. Questa è la cruda realtà. Sì. Nel senso che il Sacher è stato, diciamo, una prima romana, ne abbiamo fatto una a Milano una settimana prima, adesso parliamo di 3-4 settimane fa ormai. Sì. E dopodiché il film sta girando grazie ai volontari di Emergency che nelle varie città organizzano delle proiezioni private, addirittura so che hanno messo su un circuito attraverso una catena di hotel che gli permette di usare la sala cinema, quindi situazioni sempre anomale. Di possibilità di distribuzione, quindi di visibilità vera e reale, c'è solo quella, quindi sì, il film capita a volte di essere visto anche in piccole città grazie appunto a questi gruppi di volontari che poi sono quelli che sostengono l'associazione da sempre. Il nostro film in realtà ha un percorso molto importante all'estero, mm-hmm, sta girando molti festival. Bene. E l'ultimo è stato il Festival dei Diritti Umani di New York a fine giugno, dove tra l'altro ci hanno anche premiato come film dell'edizione di quest'anno, quindi abbiamo girato a Londra, siamo stati a Amsterdam, insomma più vari festival minori. Bene. Andremo a Varsavia, andiamo a Tokyo, eccetera. E quindi il film all'estero sta, insomma, c'è un suo percorso. Qua in Italia l'unico percorso che noi, insomma, aspettavamo, nel senso che la RAI lo ha preacquistato, quindi ce lo ha praticamente da aprile, dal 30 aprile dell'anno scorso. Ah. Però ad oggi nessuna rete si è resa disponibile per la messa in onda. Tieni conto che poi questa cosa non è solo una volontà del direttore di rete, ma c'è anche, funziona in una certa maniera, praticamente il film è di Rai Cinema che lo vende alla rete, quindi sono tutti meccanismi burocratici. Sì, e tra virgolette non solo, il film comunque non è andato mai in onda. Certo, di una cosa che anni fa furono girati, li girò Fabrizio, un paio di film, e uno era Effetti Collaterali e l'altro Jang, uno prima e uno dopo l'11 settembre, e la Rai li mandò in onda su Rai 3. Mm-hmm. Quindi all'epoca non ci furono problemi. Ora evidentemente per problemi di palinsesto che altro il film non si vede. Mm. Paolo, facciamo un passo indietro però, okay. Soprattutto per chi ci ascolta. Di cosa parla il documentario Domani torno a casa? Dunque, il film nasce da una chiamata di Gino Strada che stava per aprire l'ultimo ospedale costruito da loro, che è questo centro di cardiochirurgia di eccellenza, sì, a Khartoum, che è stato aperto un anno e mezzo fa, e ci aveva chiesto a Fabrizio, che ha coinvolto poi anche me, di fare un film, un documentario. A quel punto con Fabrizio si è deciso di raccontare quell'esperienza lì, insomma l'esperienza di questo ultimo ospedale, nello stesso tempo, visto che stavano per quest'anno, tra l'altro è stato l'anniversario dei 15 anni di Emergency, di raccontare anche l'ospedale di Kabul, che è stato il primo a essere costruito. Sì. A quel punto l'idea è stata quella di non stare, di evitare di fare un documentario prettamente sull'organizzazione, anche se ne parla logicamente in toto, ma è stata quella di seguire due pazienti tipo, tra i vari centinaia di migliaia, parliamo di quasi 4 milioni di persone che sono state curate negli anni di Emergency, e quindi raccontare il loro percorso. Sì. In sud abbiamo seguito un ragazzino di 15 anni che abbiamo incontrato in un campo profughi, che poi viene operato al cuore al centro di cardiochirurgia, quindi seguiamo dal momento in cui lui arriva alla prima visita e alla prima clinica che è stata costruita all'interno di questo campo profughi a 30 km da Khartoum, dove vivono circa 100.000 persone. Mm-hmm. Da 15 anni. Lui è un ragazzino che è scappato a un anno con la famiglia dalla guerra, da una delle tante guerre in Sudan, e quindi ha accusato una malformazione cardiaca che se l'è portata avanti nel corso del tempo, fino a che grazie all'ospedale di Emergency è stato operato e quindi è riuscito a sopravvivere. Mm-hmm. Invece in Afghanistan, a Kabul, siamo arrivati al pronto soccorso dell'ospedale e abbiamo seguito dopo un paio di giorni un gruppo di ragazzini tutti feriti da mina antiuomo, 7-8, e in particolare un piccolo bimbo di 6 anni che è proveniente da un'etnia Zara da 500 km da Kabul, e praticamente l'abbiamo seguito dal momento in cui è arrivato all'operazione. Il bambino perde tutta completamente una mano e alcune falangi dell'altra, e lo seguiamo fino alla sua uscita. Mm-hmm. Quindi è un film senza interviste, prettamente su di loro, sulla vita all'interno dell'ospedale, fuori dall'ospedale per quel che riguarda il ragazzino di Khartoum, e niente, questo è. Mm-hmm. Diciamo che l'idea era quella di mettere dentro solo il punto di vista di questi due ragazzini. Bene, bene. Oh, e a questo punto ti volevo chiedere anche se c'è un riferimento internet legato al film dove poter saperne di più. Guarda, per tutta questa cosa qua, tutta questa storia che si allaccia anche al discorso distributivo, e subito dopo l'estate, cioè che sì, stiamo discutendo adesso, e stiamo cercando di mettere a punto tutta questa cosa qui, e probabilmente riusciremo anche a distribuire, sì, si spera, nel giro di 2 mesi, il film tramite una testata, non si sa ancora quale, però riuscire a distribuirlo in edicola, in DVD. Ho capito. Perché penso che sia ormai l'unica possibilità. Dopodiché cercheremo anche di creare sia un sito internet, mm-hmm, in modo che chiunque possa fare richiesta, perché chi riesce a vedere il film, soprattutto gente che lavora nell'ambito scolastico, ci richiede il film perché vorrebbe nel prossimo anno organizzare delle proiezioni, sì, in scuole diverse, parliamo dalle medie fino alle superiori, università. Mm-hmm. Tieni conto che per esempio il film negli Stati Uniti adesso, tramite il Festival dei Diritti Umani, farà un percorso per tutti gli Stati Uniti all'interno di una trentina di università. Mm-hmm. Per cui diciamo che siamo molto contenti, insomma, del fatto che poi il film, al di là del fatto che sia un film, comunque non lo è, perché in realtà è un documentario, sì, certo, di una realtà così tragica e così vera, che poi l'importante è che il film sia visto al di là del percorso artistico, anche se poi quello ce l'ha comunque, però non è quella la cosa importante. Mm-hmm. L'altra sera per esempio eravamo al festival a Bobbio, il festival di Marco Bellocchio, sì. E appunto Marco, dopo aver visto il film, si diceva, beh, si fa fatica a parlare di film, e io ho detto, beh, perché in realtà no, non lo è. E quindi, cioè, sì, la contraddizione è quella, però voglio dire, dovunque va il film, l'altra sera c'erano quasi 400 persone, e c'è tutta una serie di domande, comunque un coinvolgimento del pubblico che appunto va oltre. Appunto al fatto che è un film, ma si parla di guerra, si parla di infanzia violata, si parla di Gino Strada, di Emergency, di quello che fa questa associazione da anni, insomma. Quindi questo è il risultato che ci interessa. Poi dopo, se la RAI deciderà di farlo vedere, saremo molto contenti, perché magari qualche migliaia di persone in più se lo vede. Eh sì. Paolo, allora senti, facciamo così, ci teniamo in contatto per prossime novità, sia per la distribuzione che ventilavi rispetto all'edicola, che insomma per qualche messa in onda. Sicuramente. Va bene. Ti ringrazio da parte mia, da parte di Fabrizio Lazzaretti, che vi saluta, e da parte anche di Clelio Benevento, che si è fatto il montaggio, che ci ha aiutato a scrivere il film. Bene, un abbraccio e a presto. Anche a te, ciao a tutti. Ciao. Paolo Santolini, coregista del documentario Domani torno a casa, dovremmo contattare altri due visionari, per cui rimanete lì. Bentornata. Ma grazie. Bentrovati a tutti gli ascoltatori, a te Federico. E alle ascoltatrici. Come stai? Una lunga assenza, eh? Sì, sono stata un mese praticamente di assenza e quasi tutto il mese di permanenza negli Stati Uniti. Sì. Molto molto bello, è stato un viaggio di grande interesse, devo dire più approfondito rispetto a quello dello scorso anno. Ho lavorato anche e ho visto alcuni film. Sì. Che da noi usciranno prossimamente, quindi a parte Harry Potter che è già uscito. Mm-hmm. E che quindi sarò molto felice di vedere in anteprima. E uno di questi, tengo subito a dire, che sarà un mio film, un cavallo di battaglia con cui lotterò contro tutti i detrattori, che è Public Enemies di Michael Mann. Ah, ok. Che da noi uscirà a Natale, e già visto. Sarai la sua paladina, quindi. Beh, diciamo che merita. Michael Mann è un grande regista, comunque Johnny Depp un grandissimo attore, insomma, e così, e varie cose viste. Senti, a proposito, rispetto proprio al cinema, com'è, che rispetto alla nostra situazione, che chiaramente quali differenze di fondo hai trovato rispetto a come si vive anche il cinema, come lo vive la gente, il pubblico, sì, come certo. La fruizione? Beh, allora, tu intendi come situazione, cioè quindi dal punto di vista del pubblico, non dal punto di vista di come si lavora nel cinema. Come si lavora nel cinema è facilmente immaginabile, le differenze sono abbastanza abissali. Beh, sì, c'è da dire una cosa fondamentale che distingue i due sistemi cinematografici, proprio l'industria, sì. Che in Italia... tendenzialmente appartiene una buona parte della produzione, ha comunque un aggancio agli incentivi statali, no? Sì. Ai finanziamenti pubblici, anche attraverso la televisione pubblica, e comunque adesso, vabbè, sappiamo che sono stati tutti i tagli, no? Anzi, si sa che siamo in un periodo di mobilitazione a favore di un reintegro del Fondo Unico per lo Spettacolo, però negli Stati Uniti questo non esiste, cioè è tutto basato sul sistema privato, sì. Per cui anche il cinema è un'industria di privati, grandi o piccoli che siano, comunque non esiste nulla legato al bene culturale, tra virgolette, per quanto riguarda il cinema, è percepito esattamente come un'industria a sé. E questo come funzionamento, di conseguenza c'è una grande libertà espressiva. Beh, certo, poi siamo comunque in un paese enorme, al di là di tutto, proprio da un punto di vista fisico, sì. Questo già, no? Ecco. Sì. Il cinema, diciamo che io mi sento di dire, dopo due volte che sono stata lì, che ho cercato di capire, intervistato diverse persone, e comunque non si può prescindere dal cinema americano per parlare del cinema, certo. Come arte e come mercato, come tutto, come perché tutto. Ecco. Ecco, una cosa che mi è venuta in mente adesso sentendo di parlare, ecco, rispetto invece alla realtà indipendente, che differenze hai notato? Beh, fondamentalmente, ecco, tutto ciò che è indipendente è identico in tutto il mondo, proprio in quanto indipendente, per cui l'indipendenza in America sostanzialmente significa indipendenza dagli studios, dalle major, da Hollywood, sì. Ok? Infatti tutto ciò che non è di Hollywood si dice off Hollywood, ok? Quindi no, off, è tutto off, quello che è il teatro, quello che non è Broadway, è off Broadway, eccetera. E di indipendenti ce ne sono a bizzeffe, ovviamente, e sono comunque degli indipendenti che sono grossi, alcuni sono veramente grossi, cioè avercene da noi degli indipendenti come ce ne stanno negli Stati Uniti, insomma. Cioè parliamo di gente come Weinstein, no? I fratelli che hanno fondato la Miramax, che è una delle case indipendenti diventate più potenti, poi si sono agganciati alla Disney, che è chiaramente uno studio, però nascono come indipendenti, ora sono tornati indipendenti. Due fratelli hanno lanciato gente come Tarantino, per intenderci. Sì. E, no, io posso dire una cosa rispetto invece alla fruizione. Sì. Allora, ci sono due elementi da considerare. Uno, che proprio dagli Stati Uniti l'Europa sta imparando, anche per una motivazione di sopravvivenza, a non chiudere più le stagioni, per cui l'anno cinematografico di solito, soprattutto in Italia, esclude l'estate. Sì. Invece lì non esiste soluzione di continuità, per cui soprattutto l'estate, questa è una cosa interessante per cui io vado anche in questo periodo, è il momento di lancio di grandi film. Infatti non a caso è uscito Michael Mann con Public Enemies, che per noi è uno dei film di Natale di punta. Là era uno dei film del 4 luglio, perché il 4 luglio è la festa di indipendenza degli Stati Uniti, la massima festività nazionale, ed escono per tradizione grandi film, sì. Diciamo al pari del Natale, hanno come dire due Natali loro, sì. Dal punto di vista del cinema. E perché? Perché comunque il cinema è una forma di intrattenimento, allora tendenzialmente economica, perché rispetto ad altre forme, no? Sì. Diciamo come fruizione pubblica, non privata. E quindi è di solito qualche cosa che può adattarsi a tutti i tipi di portafogli, a tutte le tipologie di persone, eccetera. E poi, insomma, il cinema è comunque da vita, cioè è sempre no, cos'è che volevo dire? Volevo dare il cinema oggi negli Stati Uniti non è più soltanto il cinema per le sale, quindi le sale cinematografiche, insomma, dove tendenzialmente si vanno a vedere i film, sì. Ma è diventato un qualche cosa che offre dei prodotti, chiamiamoli prodotti, ma comunque, perché non voglio dire che sono solo film, ma possono essere filmati di diversi portati, cioè parliamo di industria audiovisiva, che possono essere fruiti attraverso diversi canali. Sì. Per cui se da noi c'è ancora questa grossa differenza tra il cinema visto in sala, no? E poi il cinema visto, che ne so, attraverso le televisioni satellitari a pagamento, pay per view, tutte queste forme di visione privata, comunque di film magari appena pensati in sala, e poi dell'home video, In America queste cose coesistono, a parte l'uscita dell'home video che ha sempre comunque un periodo, una finestra diciamo di differenza di tempo, però spesso e volentieri alcuni film non escono nelle sale ma vengono fatti per altre forme di fruizione, e non parlo di fiction televisiva, ecco, voglio dire sono veri e propri film. E credo che anche noi arriveremo a delle forme diversificate di fruizione, già ci stiamo arrivando attraverso i pay per view. Ecco, cambia che cosa? Cambia però la forma sociologica di questa, dell'intrattenimento cinematografico, perché diventa una, come dire, una, il pranzo che invece di consumarlo al ristorante te lo porti a casa, no? E, mentre contemporaneamente lo potresti mangiare al ristorante, che è la differenza di, no? E quindi c'è da riflettere anche sui vari formati che vengono prodotti, sulle varie estetiche che si differenziano, le tematiche, insomma tante cose. E poi una cosa che mi ha come dire, no, sorpreso, perché già la sapevo, però verificarla insomma con mano è diverso, è l'espansione estrema del tridimensionale, per cui da noi stanno arrivando, cioè perché stanno arrivando da lì naturalmente, e quindi se solo pensiamo che il prossimo anno il listino della Walt Disney sarà al 75-80% con possibilità di fruizione in tridimensionale, cioè i film saranno comunque visibili anche su schermi in 3D, a partire dal prossimo Tim Burton che sarà in 3D. Ecco, vuol dire che la tecnologia in 3D si sta potenziando e sta creando una rivoluzione anche estetica, fruitiva, una seconda giovinezza, è paragonabile a quello che fu la portata del colore, no? Dal bianco e nero al colore, o dal sonoro, dal muto al sonoro, eccetera. Ecco, diverso perché già noi siamo abituati a delle realtà attraverso videogiochi, attraverso la realtà virtuale, insomma, però così massicciamente nel cinema, cioè l'idea che comunque vai al cinema e ti danno gli occhialini, cioè tutta una ritualità diversa. Ecco. E poi effettivamente una volta che ti abitui al cinema in 3D capisci la differenza. Da noi ancora sono rare, anche perché da noi non ci sono sufficienti sale disponibili con le apparecchiature digitali predisposte al 3D, però so che gli investimenti ormai degli esercenti sono massicci, anche perché l'esigenza del pubblico diventa quella, se sanno che c'è un film visibile in 3D, ad esempio Coraline, non so se ne avete parlato di questo film, della animazione. Credo di sì. Ecco, io credo che tra l'altro volevo parlarne dopo, quello è un film in 3D. Io per esempio lo volevo vedere in 3D e l'ho comprato il biglietto pensando fosse in 3D, invece mi sono accorta che la sala non era in 3D, era in 2D, no? E questo ci sono rimasta molto male perché lo volevo vedere in 3D. Coraline secondo me è un capolavoro, lo volevo dire, non so se tu l'hai visto. No, non l'ho visto, però ci vorrei tornare sopra perché adesso siamo in chiusura. E anche sul discorso rispetto al cinema statunitense, se tu ci sei ancora anche la prossima settimana. Assolutamente, perfetto, per me fa solo piacere perché ci sono tante cose da raccontarsi, no? No, infatti io volevo dire di andare a vedere Coraline perché il regista è il coautore di Tim Burton in Nightmare Before Christmas. E l'estetica è quella, una storia favolosa, veramente magnifico, e io consiglio di vederlo in 3D, appunto, di non perderlo. Tornando al discorso, vabbè, certo. Senti cara, allora un abbraccio. Ci sentiamo alla prossima e chissà, magari ecco, ci vediamo anche prima. Posso dare una notizia? Come no? Dai. Io sono reduce adesso dalla conferenza stampa della Settimana Internazionale della Critica a Venezia, che è la prima, ecco, la prima sezione illustrata del prossimo festival. Abbiamo un nostro amico che concorre, l'unico italiano a concorrere nella Settimana della Critica, è Claudio Noce. Bene. Lungometraggio, forse tu già lo sapevi, però insomma la notizia adesso è ufficiale. Bene. Facciamo i complimenti. Ne parleremo proprio con lui, credo. Va bene. Allora alla prossima. Un abbraccio. Ciao. Siamo in chiusura. La seconda società adesso dopo Visionari. E Visionari torna per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Qualsiasi informazione potete trovarla sul sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Buon proseguimento.